Il punto di Stefano Folli. Questo Risetti di Barroso e Von Rompuy, i due volti dell'Europa, richiesti di commentare le misure economiche italiane, si sono trasformati in ampi gesti di solidarietà dopo il colloquio con il nostro Renzi, ma naturalmente questo non significa che sia stato concesso nulla. L'Europa, come già la signora Merkel l'altro giorno, semplicemente si attende che le riforme promesse dal governo di Roma siano attuate e diano frutti nel nostro interesse, prima ancora che nell'interesse europeo. Il resto, quel balletto un po' rischioso intorno al famoso limite del 3%, lascia parecchio dubbiosi i nostri interlocutori europei, di qui i sorrisetti, ma lasciano fare sia pure con scetticismo perché vogliono vedere dove andranno a parare questi italiani. Ci sono le elezioni alle porte e forse persino a Bruxelles capiscono che i voti bisogna prenderli. Comunque sia, Renzi ora sa per certo che la vera sfida sono le riforme, serie, approfondite, perciò dolorose, non solo annunciate. Stiamo facendo una rivoluzione, ha detto il Premier, bene, purché sia chiaro che le rivoluzioni sono sempre drammatiche.